Datemi un indizio in più, qualcosa che mi aiuti a capire. Che fine ho fatto? Che cosa mi è successo di nuovo? Che cosa faccio? Dove mi trovo? Io sono il vuoto, sono quello tagliato via nella foto. Io sono il margine, sono la sponda. Io sono quello che resta all'ombra. Io sono il mai, io sono il senza. Io sono in trasparenza. Io sono il buio, non ci sono e non c'ero. Io sono la dissolvenza vero. Qualcosa di più, qualcosa che mi aiuti a capire. Datemi un indizio in più, vorrei sapere che fine ho fatto, che cosa mi è successo di nuovo, che cosa faccio, dove mi trovo. Chissà che faccia ho adesso, che cosa mi è successo. Io non esisto, io sono il vuoto, sono quello tagliato via nella foto. Io sono il margine, sono la sponda. Io sono quello che resta all'ombra. Io sono il mai, io sono il senza. Io sono l'inesistenza. Io sono il buio, non ci sono e non c'ero. Io sono la dissolvenza nero. Io sono niente, sono il non vivo. Io sono il punto interrogativo. Sono lo zero, sono il cancellato. Io sono il bambino mai nato. Sono il mancante, sono l'assenza. Sono l'eroe della resistenza. Io sono il no, sono il disperso, sono il filo interrotto del discorso. Io sono il nulla, io sono il vuoto, sono quello che manca nella foto. Io sono il forse, io sono il mai. Io sono ciò che non ricorderai. Io sono fumo, io sono aria. Io sono il buco di memoria. Io sono il non so, il presente negato. Io sono quello che non c'è mai stato. Io sono quello di cui non si chiede. Io sono quello che non si vede. Sono la fuga e il cammino perduto. Io sono il disertore ignoto. Sono il rifugio dalla distanza. La distrazione e la dimenticanza. Sono il dilemma, sono il non saprei. Io sono quello che non c'è mai.